Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Comunico all'Aula che è stato depositato il parere da parte dell'ORF, perché tale parere è non favorevole, motivo per cui sospendo la seduta e convoco immediatamente la conferenza dei presidenti dei gruppi. Ecco, non si sentiva chiarissimamente, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ma era Marcello De Vita dentro il Consiglio Comunale, presidente del Consiglio Comunale di Roma, che diceva, annunciava praticamente un altro capitolo dello psicodramma della Giunta romana, e cioè che non è stato approvato il bilancio previsionale 2017, la bocciatura da parte dell'OREF, che è l'organismo di controllo. Insomma, non è stato approvato, vedremo che conseguenze potrà avere. E poi invece, per quanto riguarda Milano, parleremo del ritorno di Beppe Sala nel ruolo di sindaco. Sapete che si era autosospeso, aveva avuto molte sollecitazioni a tornare a fare il suo lavoro, sia da parte del PD ma anche da parte delle opposizioni. E poi soprattutto però ci soffermeremo sulla strage di Berlino di ieri sera, che proprio era avvenuta poco prima dell'inizio di Effetto Notte, vi ricordate, e cercheremo di capire. Intanto ci collegheremo con la capitale tedesca per avere degli aggiornamenti anche per esempio su questa ragazza italiana, Fabrizia Di Lorenzo, che è ancora data per dispersa, anche se il padre dice non mi illudo, secondo noi è finita, però insomma, finché non c'è l'identificazione certa. E poi cercheremo anche di capire se questo ripiombare, questo atto di terrorismo che ci costringe a ripiombare di nuovo nella paura, che significato ha. Abbiamo visto in queste ore che sia Londra, sia Parigi, sia New York hanno rafforzato le misure di sicurezza, e così anche in Italia. Cercheremo anche di capire che cosa si sta facendo nel nostro paese. Per la vostra interazione qui con Effetto Notte, lo sapete ormai, c'è la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure potete scrivere WhatsApp, SMS al 349-238-6666. Lo ripeto, 349-238-6666. Quindi, come sempre, tantissimi temi. Cominciamo, come sempre all'inizio, a sentire che giornata è stata. La strage di Berlino, le vittime sono 12, una cinquantina i feriti, dispersa una ragazza di Sulmona, ma il padre dice non mi illudo. L'ISIS rivendica l'attacco, intanto è stato rilasciato il pakistano arrestato, l'attentatore è ancora in fuga. Merkel non cede, dice grave se è stato un profugo, ma sull'accoglienza non cambieremo. Sale l'allerta terrorismo, il ministro Alfano sottolinea non esiste il rischio zero, l'allerta terrorismo resta sempre altissima, dice il Viminale, non esclude atti emulativi ed emana una direttiva a prefetti e questori, rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di maggior afflusso. Roma, la Giunta Raggi di nuovo nel caos, bocciato il bilancio del comune, conti sbagliati, dicono i revisori. Milano, Beppe Sala torna a fare il sindaco, sono certo della mia innocenza, dice, il messaggio di Gentiloni è hai fatto bene. La scalata di Vivendi a Mediaset, boom di scambi sul titolo del Biscione in borsa dopo l'annuncio dei francesi di voler salire dall'attuale 20% al 30% di proprietà. TAV sì finale al trattato con la Francia, dopo un iter di 25 anni la Torino-Lione si farà, via libera della Camera, 285 voti a favore, 103 contrari, l'Italia investirà 2,9 miliardi, proteste in aula del Movimento 5 Stelle. Vatilix, Papa Francesco ha concesso la libertà condizionale a Monsignor Valleio Balda, il prelato coinvolto e condannato nella vicenda, e per la prima volta chiama una donna a dirigere i Musei Vaticani, Barbara Iatta. Per il calcio, Supercoppa Italiana a Doha, il club rossonero, il Milan, avverte se il volo aereo è ancora in ritardo, salta la sfida di venerdì con la Juventus. Partiamo quindi dalla strage di ieri sera di Berlino. L'agenzia di stampa dell'ISIS, Amaq New Agency, poco fa ha rivendicato l'attentato di Berlino chiamando il terrorista un soldato dello Stato Islamico. Lo riferisce su Twitter Rita Katz, che è la direttrice del site, il sito che monitora l'estremismo islamico sul web. È una vendetta per gli attacchi in Siria, è scritto sulla rivendicazione. Le vittime sono 12, una cinquantina i feriti, risulta dispersa una ragazza italiana, Fabrizia Di Lorenzo, la madre è a Berlino per il test del DNA, ma il padre Gaetano dice non mi illudo. Intanto è stato rilasciato il pakistano fermato ieri poiché è ritenuto in un primo tempo il responsabile della strage, quindi l'attentatore è ancora in fuga. La cancelliera tedesca Merkel però non cede alle pressioni e dice sarebbe davvero grave se fosse stato un profugo, ma sull'accoglienza noi non cambieremo. Intanto sale l'allerta in Europa e in Italia il ministro degli esteri Alfano avverte che l'allerta terrorismo resta sempre altissima, il Viminale non esclude atti emulativi ed emana una direttiva ai prefetti e questori dicendo bisogna rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di maggiore afflusso di persone, eventi pubblici, possibile uso di dissuasori, annullamento di manifestazioni a rischio, allarme rosso terrorismo, Scotland Yard in Gran Bretagna rivede i piani di sicurezza a Londra, rafforzate le misure di prevenzione in Francia e anche a New York. Poi, come dicevo, ci soffermeremo a lungo sulla cronaca da Berlino, sull'analisi di questa recrudescenza di terrorismo e anche sulle misure di sicurezza approntate in Italia. Nel frattempo, in Turchia proseguono le indagini per l'uccisione dell'ambasciatore russo. Non è passato dal metal detector Mevlut Mert Altıntaş, si è rifiutato e ha mostrato la tessera da poliziotto. Così è entrato nella galleria d'arte contemporanea di Ankara, dove l'ambasciatore russo Andrei Karlov stava tenendo un discorso e gli ha sparato più di 10 volte. Chi abbia armato la sua mano non è chiaro, ma Ankara, come conferma la stampa turca, segue la pista gülenista. Altıntaş aveva ottenuto un permesso tra il 16 e il 18 luglio e il tentato golpe sarebbe stato previsto proprio per il 16 luglio, poi anticipato al 15, dato che l'intelligence aveva scoperto qualcosa. Il 15 era in servizio a Diyarbakır, ma il 16 era ad Ankara. L'ufficiale che gli ha concesso la licenza è stato arrestato dopo il tentato golpe e lui stesso era stato sospeso il 4 ottobre perché sospettato di avere legami con i gülenisti, poi reintegrato il 16 novembre. 6 nel frattempo gli arresti, tra i quali padre, madre, sorella e uno zio di Altıntaş, che stando a quanto rivela il quotidiano filo governativo Sabah, avrebbe insegnato in passato in una scuola gülenista. Ma ora qualcuno si chiede come mai Altıntaş non sia stato catturato vivo, domanda che oggi ha posto anche il capo del principale partito d'opposizione, Kemal Kılıçdaroğlu. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Ieri l'assassino dell'ambasciatore russo aveva gridato questa è la vendetta per Aleppo e a Mosca oggi c'è stato il vertice sulla crisi di Aleppo. La Russia dice che con Iran e Turchia è pronta a diventare garante di un eventuale accordo di pace tra il governo siriano e l'opposizione. L'assedio di Aleppo e l'omicidio dell'ambasciatore Andrei Karlov, due storie che oggi si incrociano sullo sfondo dei 5 anni di guerra in Siria e dell'ondata di terrorismo di matrice islamista che colpisce da Berlino ad Ankara. Tenere insieme questi elementi solo apparentemente distanti oggi è la priorità della diplomazia russa che attraverso le parole del ministro degli esteri Sergei Lavrov ribadisce da Mosca l'intenzione di diventare con Iran e Turchia il garante di un eventuale accordo di pace tra il governo siriano e l'opposizione. Mosca, Ankara e Teheran concordano sul fatto che la crisi siriana non debba essere risolta militarmente, ma politicamente, ha detto Lavrov durante una conferenza stampa con i suoi omologhi, Jawad Zarif e Cavusoglu. Ed è proprio il turco a fornire i dati aggiornati dell'evacuazione nella grande città liberata da mesi di assedio. 37.000 persone hanno già lasciato Aleppo, ha spiegato, aggiungendo che l'obiettivo è di completare tutto entro le prossime 24 ore. Un programma che suona come una speranza ambiziosa per una crisi che ha messo a rischio rapporti consolidati e ne sta forse creando di nuovi. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora occupiamoci delle vicende strettamente italiane con la sempre più pesante situazione in Campidoglio. Stasera è arrivata anche la bocciatura del bilancio annunciata in aula dal presidente Marcello De Vito. Avete sentito anche all'inizio, no dunque dell'organo di revisione economico-finanziaria del Campidoglio al bilancio di previsione 2017 presentato dall'amministrazione guidata da Virginia Raggi, l'ultima pesante tegola, quindi al termine di una giornata ancora ad alta tensione per la sindaca capitolina. Virginia Raggi cerca di separare i propri destini da Raffaele Marra, l'ex dirigente del comune arrestato con l'accusa di corruzione. Non temo le parole di Marra, dice la sindaca di Roma, che precisa, anche perché non mi ricattava. E la prima cittadina chiede la verifica di legittimità degli atti dell'ex capo del personale. Poi interviene in assemblea capitolina per annunciare le nuove nomine del vice sindaco Luca Bergamo e del nuovo assessore all'ambiente Pinuccia Montanari. Vogliamo riuscire a chiudere il ciclo di Ama, vogliamo andare verso quella che viene definita economia circolare, dove i rifiuti sono in realtà materie prime seconde o prodotti post consumo. Marra intanto risponde al GIP e nega di essere stata a disposizione dell'imprenditore Sergio Scarpellini, l'averlo detto era solo un atto di cortesia, mentre il difensore Francesco Scacchi depositerà documenti sui fondi serviti per l'acquisto della casa in via Prati Fiscali. Dal canto suo Scarpellini nega di aver pagato presunte tangenti precedenti, i soldi che diede a Marra, pari a 367.000 euro nel 2013, erano un prestito e spera che gli vengano restituiti. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E da Roma a Milano, dove Giuseppe Sala torna a fare il sindaco, sono certo della mia innocenza, dice, domani Sala parlerà a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Di questo torneremo a parlare più tardi nel corso di Effetto Notte. Restiamo però sulla politica. A seguito dell'esito referendario, il governo, guidato dal presidente Matteo Renzi, ha deciso di rassegnare le dimissioni. Al presidente Renzi rivolgo un saluto cordiale, ringraziandolo per l'opera prestata al servizio del Paese in quasi 3 anni di intenso impegno a capo del potere esecutivo. Avete sentito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi nel suo intervento per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile, ha ringraziato il passato governo Renzi e Renzi stesso. E ora i mercati, Piazza Affari in rialzo con Mediaset MPS al centro degli scambi. Mediaset vola ancora in borsa sotto la spinta degli annunci di vendite che proseguono senza sosta. Questa settimana è iniziata con l'avviso di una prossima salita dei francesi al 30% del Biscione. In Piazza Affari, in una sola seduta, il titolo Mediaset è cresciuto del 24% ed è passato di mano un altro 10% del capitale. Per questa sera è atteso un nuovo annuncio da Parigi che dovrebbe aggiornare la quota oltre il 20% che Vivendi già possiede. Giovedì o venerdì il vertice della compagnia transalpina sarà ascoltato dalla Consu, che vuole capire meglio le modalità della scalata. Finimes sospetta che la scalata sia stata preparata d'arte, facendo calare le quotazioni con la disdetta dell'accordo già firmato ad aprile su Premium e progettata da tempo facendo ricorso anche a derivati. Ma da parte francese si respinge questa ricostruzione. Sotto traccia c'è la quota di Telecom, detenuta dai francesi, che potrebbe entrare in gioco in qualche modo. La scarmaglia legale intanto continua. Finimes si è appellata alla procura e alla Consub, mentre Mediaset ha inviato un esposto alla Gcom sulla condotta di Vivendi, che costerebbe con le disposizioni della legge Gasparri. Antonello Olivieri, Radio 24 e Sole 24 Ore. Vivendi che è salita al momento al 26%. Adesso parliamo del governo che dà il via libera al decreto salva risparmio, uno scudo di 20 miliardi di euro da usare a scopo precauzionale. Il governo varrà l'operazione salva risparmio, 20 miliardi di euro da raggranellare nel 2017 con le emissioni di titoli del debito pubblico e necessarie a supportare le banche in difficoltà. Nelle intenzioni del governo l'operazione salva risparmio è precauzionale e le risorse potranno essere usate solo per la garanzia di un adeguato livello di liquidità, anche con garanzie pubbliche, o per un programma di rafforzamento patrimoniale delle banche che preveda anche la sottoscrizione di nuove azioni. Ora la partita passa in Parlamento, dove le opposizioni chiedono una commissione d'inchiesta sulle banche. Domani Camera e Senato dovranno approvare la relazione del governo sul sistema bancario per dare così il via libera a un decreto legge che potrebbe arrivare entro fine settimana. I partiti hanno intanto iniziato a spostare le pedine. La responsabile comunicazione di Forza Italia, Deborah Bergamini, giudica il provvedimento del governo salva banchieri e non risparmiatori. Stefano Fassina, deputato di Sinistra Italiana, dice no a una cambiale in bianco da 20 miliardi. Alla Scelta Civica ha invece convocato per la tarda serata una riunione del gruppo per decidere come votare. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sulla tavola alta velocità, via libera definitivo dell'Aula della Camera, la ratifica del trattato Italia-Francia sulla TAV. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 285 voti a favore, 103 contrari, Movimento 5 Stelle e SEL, 3 astenuti. L'Italia investirà 2,9 miliardi. Al voto finale sono opposti i deputati del Movimento 5 Stelle, che hanno esposto striscioni con la scritta No TAV e hanno protestato per un accordo che definiscono scandaloso. Affermano fa spendere almeno 2 miliardi e mezzo di euro di soldi pubblici e che sventra una valle, prosciuga i corsi d'acqua, sparge polvere di amianto su tutto il territorio. Ha replicato Rosato del PD, che dice si oppongono a tutto, anche ad ammodernare le nostre infrastrutture e rendere il paese più competitivo, ma poi viaggiano in prima classe sull'alta velocità per raggiungere Roma e venire a fare la morale in Parlamento. Parliamo di WikiLeaks. Papa Francesco ha concesso la libertà condizionale a Monsignor Valleio Balda, il prelato coinvolto e condannato nella vicenda. E per la prima volta Francesco chiama una donna a dirigere i Musei Vaticani, Barbara Iata, 54 anni, romana. Per la cronaca, è stato annullato il concerto di Natale previsto questa sera in Duomo a Milano. La decisione è stata presa dopo che nel pomeriggio un uomo di 62 anni è precipitato dalla terrazza superiore a quella inferiore della cattedrale ed è morto, e probabilmente si tratta di un suicidio. E poi il caso di Roberta Ragusa. Domani alle 9 di mattina si svolgerà l'ultima udienza del processo con rito abbreviato, nel quale Antonio Logli marito della donna scomparsa, è imputato di omicidio volontario, occultamento di cadavere della moglie, appunto Roberta Ragusa, svanita nel nulla quasi 5 anni fa. La sentenza è attesa intorno all'ora di pranzo. Stati Uniti, si va verso l'abrogazione della controversa legge che vieta nelle scuole del North Carolina i bagni per i transgender. La prima a farlo è stata l'amministrazione comunale di Charlotte, che ha deciso di abolire il provvedimento che obbligava i transessuali ad usare bagni a seconda del sesso assegnato alla nascita e non secondo l'identità di genere. La parola ora passa allo Stato, il cui congresso si riunisce per prendere una decisione finale. Per chiudere c'è il calcio con l'anticipo Atalanta-Empoli 0-0 per il momento, e poi c'è anche un'altra notizia di calcio, che è la Supercoppa italiana a Doha in Qatar, che rischia di saltare perché sta saltando il volo aereo del Milan. Il club dei rossoneri ha avvertito, se continuano i ritardi il Milan non partirà per Doha, dove venerdì è in programma la Supercoppa, quindi salterà. Poi ci aggiorneremo anche su questa vicenda un po' paradossale. Intanto vi ricordo, per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Per esempio c'è Claudio che chiede perché, per quanto riguarda l'attentato di ieri, perché Berlino, perché la Germania. Ne parleremo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie principali ve le ricordo tra pochissimo, intanto avete sentito come sempre il riassunto della giornata, non perdetelo soprattutto all'inizio per avere il quadro esaustivo delle notizie più importanti, e poi naturalmente proseguite qui a Effetto Notte fino alle 22 per anche comprendere alcuni argomenti in particolare. Partiremo naturalmente dall'attentato di ieri a Berlino. Intanto vedo i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp, di questa paura che purtroppo torna, che magari cerchiamo di mettere da parte o più o meno consapevolmente di archiviare quando per un po' non si sente parlare di questi attentati, e poi di nuovo si ripiomba in questo terrore dell'imprevedibilità. Luciano scrive: il terrorismo è come il terremoto, non si può prevedere, e anche se ci aspettiamo attentati non sappiamo quando, come e perché. La cosa preoccupante, dice Luciano, che la maggior parte degli attacchi è fatto da persone integrate nei paesi e giovani. Cosa scatena in loro questa voglia di uccidere? Domenico dice: cara Roberta, purtroppo un'escalation, per quanto i nostri apparati di sicurezza si adoperino per farci vivere tranquilli, sarà sempre più difficile prevenire e contrastare il terrorismo. Tra poco ne parliamo, poi ci colleghiamo anche con Berlino per sapere gli ultimi aggiornamenti, le ultime notizie, anche per capire, a proposito di questa ragazza, questa 31enne italiana di Sulmona che è data per dispersa, insomma, qual è la sua sorte. Le notizie. A Berlino, italiana dispersa, killer in fuga, l'ISIS rivendica, il padre della ragazza dice: non mi illudo. Intanto è stato ferito anche un altro italiano. Sale l'allerta terrorismo, Alfano, il ministro degli esteri, dice: non esiste il rischio zero, e il Viminale chiede di rafforzare la sicurezza nei luoghi pubblici. Bocciato il bilancio di Roma, la Raggi intanto si difende e dice: non ero ricattata da Marra. A Milano Sala, il sindaco, torna a fare il suo mestiere. E poi la scalata Vivendi che infiamma Mediaset, boom in borsa. Vivendi sale al 26% e annuncia che vuole salire al 30% della proprietà. E Mattarella che dice: Presidente della Repubblica, al voto si andrà quando ci saranno le condizioni. E poi la Turchia che, a proposito dell'uccisione dell'ambasciatore russo ieri, punta il dito sulla rete golpista di Gulen e dice: probabilmente il killer studiò in scuole dell'imam. E poi la prima volta dei Musei Vaticani, una donna alla guida, chiamata da Papa Francesco, è Barbara Iatta, 54 anni, è stata nominata nuova direttrice dal Papa, prenderà l'incarico il 1 gennaio 2017. Meine Damen und Herren, dies ist ein sehr schwerer Tag. Ich bin wie Millionen von Menschen in Deutschland entsetzt, erschüttert und tief traurig über das, was gestern Abend am Berliner Breitscheidplatz geschehen ist. E questa è la cancelliera Angela Merkel, che il giorno dopo la strage naturalmente ha detto: è un giorno difficile per la Germania, per Berlino, però ha anche detto, diciamo con un certo coraggio, perché l'anno prossimo ci sono le elezioni, lei si ricandida per il quarto mandato, ha detto Se fosse davvero un profugo, un richiedente asilo, sarebbe molto grave, sarebbe terribile, però noi non torneremo indietro con la nostra politica di accoglienza. Quindi ritorniamo appunto sull'attentato, questo camion piombato sulla folla nel quartiere centrale di Charlottenburg, dove c'erano i mercatini di Natale, uccidendo 12 persone, ferendone una cinquantina. Tra i feriti c'è anche un italiano, e poi appunto c'è questa ragazza di 31 anni, Fabrizia Di Lorenzo, che si dà per dispersa, anche se insomma i genitori sono piuttosto pessimisti. Tutto questo riaccende naturalmente, come vi dicevo, la paura in tutti noi in Europa degli attacchi terroristici. Per ora sono state identificate 7 vittime su 12, e una di queste è l'autista polacco ucciso dall'attentatore, perché questo camion, che tra l'altro proveniva dall'Italia, è stato dirottato da chi poi ha provocato l'attentato. Per quanto riguarda l'attentatore o gli attentatori, cittadino pakistano, il richiedente asilo, è stato liberato, era stato arrestato ieri poiché si pensava fosse lui l'attentatore, invece è stato rilasciato e quindi il terrorista vero è ancora in fuga. Questo insomma in estrema sintesi la cronaca di quello che è successo a Berlino, poi ci collegheremo con la capitale tedesca. Intanto però, a proposito di terrorismo islamista che si riaffaccia nelle città europee con la stessa modalità, vi ricordate, della strage di Nizza dello scorso 14 luglio, va detto che lo scorso novembre il terzo numero del magazine dell'ISIS, Rumiyah, conteneva dettagliate istruzioni su come utilizzare i camion per colpire assembramenti di persone, così come è successo ieri. Rumiyah tra l'altro sta per Roma, come simbolo della capitale della cristianità da conquistare. O Mujahideen, si legge sotto il nome, esultate perché non fermeremo la nostra jihad se non tra gli ulivi di Roma. Quindi cosa dobbiamo pensare di questo rigurgito di attacchi terroristici? È in qualche modo collegato, e lo chiedo ad Arturo Varvelli, che saluto. Buonasera Varvelli. Buonasera a voi. Responsabile dell'Osservatorio sul terrorismo dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, dicevo, è in qualche modo collegato all'uccisione di ieri dell'ambasciatore russo, che c'era l'attentatore che aveva gridato vendetta per Aleppo. E come dobbiamo leggerlo? E perché, chiedeva un ascoltatore, perché è proprio a Berlino, perché è in Germania? Difficile dire se sia collegato. Io penso che non ci siano elementi per poterlo dire e per poterlo confermare, quindi ci dobbiamo attenere a quelle che sono le evidenze. Quindi non ci sono collegamenti, sono due avvenimenti molto diversi, le dinamiche sono molto diverse. Uno ha risposto, l'attentatore con il camion a Berlino ha risposto a una chiamata forse generica, ma certamente della propaganda evidente, della propaganda dell'ISIS. Ripercorre esattamente la dinamica tracciata da Nizza e ripercorre esattamente le indicazioni che sono state da voi citate poco fa. Il secondo è un attentato a persona, sulla persona. Naturalmente l'attentatore di Ankara voleva uccidere l'ambasciatore russo, perché l'ambasciatore russo è simbolo della politica russa, in particolare la dichiarazione che ha fatto durante l'uccisione di fatto è il movente. Quindi non ha voluto sparare nel mucchio, fare la strage indifferenziata. Non ha voluto fare la strage e sparare nel mucchio. Naturalmente ha danneggiato la causa alla quale teneva l'attentatore, ossia quello di mettere in evidenza quanto stanno commettendo i russi sulla popolazione civile ad Aleppo, perché naturalmente ha fatto sì che ci fosse un'identificazione di queste persone o della causa di Aleppo con il terrorismo. Quindi ha ottenuto esattamente il contrario, come succede spesso con gli attentati e il terrorismo, ottengono il risultato controproducente. Le due cose non penso che non siano collegate, ma certamente sono forse l'unico filo rosso che si può trovare, sono gli avvenimenti che stanno accadendo nel mondo medio orientale. E io penso che questo sia un po' la causa di molti dei disagi che vive la popolazione araba e musulmana in senso molto ampio. È una popolazione, o sono diverse popolazioni, perché non possiamo dire che esistono un'unica popolazione, che sta vivendo fasi di conflitto di diversa natura, di diversa tipologia, ma soprattutto conflitti civili ormai da decenni, diciamo. E quindi questi sono alcuni degli esiti di questi conflitti. Poi naturalmente c'è un discorso più ampio che si può fare sulla nascita del radicalismo islamico, e anche qua non è una questione degli ultimi 2 o 3 anni, non è solamente lo Stato islamico, bisogna ricordarlo, è una sorta di spin-off di Al-Qaeda da ogni punto di vista, è uno spin-off dal punto di vista ideologico, è uno spin-off dal punto di vista della leadership, perché al-Baghdadi si distacca dalla leadership di al-Zawahiri, non la riconosce più. È uno spin-off dal punto di vista della narrativa ed è forse un miglioramento da questo punto di vista della propaganda anche. Quindi naturalmente ci sono una serie di legami che ci riconducono forse solamente al Medio Oriente, ma non penso che ci siano legami diretti. Comunque in Germania e a Berlino dicevamo, Varvelli? Sì, in Germania e a Berlino io penso che la Germania, parliamo sempre dei foreign fighters. I foreign fighters sono un indice del grado di possibili radicalizzati in un paese. Sappiamo che la Germania di foreign fighters ne ha avuti parecchi, anche se sulla riportati sulla popolazione non sono un numero paragonabile a quelli francesi, a quelli belgi ad esempio, però sono un numero considerevole. Sappiamo che la Germania è il punto finale, naturalmente, per molti dei profughi o dei richiedenti asilo, e sappiamo anche che lo Stato islamico, perché ce l'ha detto, ce l'ha dichiarato, può utilizzare anche questi canali per infiltrare dei terroristi. Abbiamo in queste ore scoperto prima che il pakistano era il rifugiato pakistano o richiedente asilo pakistano era un terrorista, e poi abbiamo probabilmente scoperto che così non lo fosse. Io penso che Angela Merkel abbia fatto benissimo a sostenere la sua linea politica. Naturalmente non è più in tempo per rimangiarsi tutta una storia politica, quindi c'è anche il fatto che deve dare una sorta di linea e di coerenza alla propria linea politica perseguita per anni. Dall'altra parte deve saper compensare sul campo della sicurezza. Ad esempio non può dire che un attentato simile è inaspettato, sappiamo quanto può essere aspettato ovunque in qualsiasi momento. Bisogna in realtà dire che è difficilissimo prevederlo. Che è quasi impossibile prevederlo, e quindi in qualche misura bisogna agire preventivamente. Varvelli, so che è un impegno, proprio un'ultimissima domanda. Sì. Sentivo un analista o qualcuno che diceva, non so se è vero, che in Italia siamo un po' meno a rischio per alcune ragioni che uno non penserebbe, per esempio la presenza del Vaticano, che ha i suoi informatori, la sua rete anche di intelligence, evidentemente l'ENI, che è presente in quei paesi, ha i suoi informatori, addirittura la criminalità organizzata, mafia, camorra, che non hanno interesse, hanno controllo del territorio, non hanno interesse che ci siano degli attentati, sì o no secondo lei? Mi sembra un po' mitologia, mi sembra un po' tutto quanto mitologico, ed è dettato dal fatto che ancora non abbiamo avuto un attentato di grande rilevanza, e io penso onestamente che sia purtroppo, penso, solamente una questione di tempo. Lo sanno bene, lo sa bene tutti gli operatori che lavorano, e lavorano bene e lavorano meglio di quanto non lavorino gli operatori della sicurezza in altri settori, questo bisogna dirlo, e in altri stati. Però ciò è dettato un po' dalle nostre condizioni sociali e di migrazione, cioè noi non abbiamo ancora seconde, terze generazioni. L'Italia è vero, è forse un po' più degli altri paesi non un luogo di arrivo ma un luogo di transito, quindi questo in qualche maniera ci favorisce, ma non possiamo pensare di essere immuni, assolutamente. Grazie Arturo Varvelli dell'ISPI, grazie, buona serata. Grazie a voi. Salute. Ora invece ci colleghiamo con Berlino, con Tonia Mastrobuoni, che è corrispondente di Repubblica dalla Germania. Buonasera Tonia. Ciao, buonasera. Allora, il pakistano è stato rilasciato, quindi significa che l'attentatore è ancora in fuga, chissà a questo punto dove sarà. Nel frattempo però non ci sono dubbi, Tonia, che si è trattata proprio di una strage di matrice terroristica. C'è stata anche la rivendicazione dell'ISIS, no? Sì, esattamente. C'è una rivendicazione appunto dell'agenzia dell'ISIS, quindi sembrava verosimile, sembra credibile. De Maizière poco fa in televisione ha detto che la stanno esaminando, ma insomma che si possa essere trattato di un attentato di matrice islamica, gli inquirenti lo hanno ammesso sin dalle prime ore del pomeriggio, esatto. Sono stati cauti su, no, in realtà sono stati cauti ieri sera, addirittura hanno mantenuto aperta a lungo l'ipotesi di un incidente. Dicevano probabile attentato, è vero, ma non dicevano che sì. Esatto. Una cautela assolutamente probabilmente giustificata anche dal precedente di Monaco, quando tu ricorderai, sì, forse i nostri ascoltatori anche, no, certo, per ore arrivarono tweet da tutta Monaco, si parlava di un commando di 2-3 terroristi che giravano per Monaco, che avevano invece era un ragazzotto, no, mi sembra, esatto, che... e che si era suicidato sul posto, quindi scatta un po' questa psicosi e la polizia in Germania tende ad assumere su di sé, a monopolizzare in qualche modo l'informazione, giustamente, i flussi, invita sempre a mandare i video eccetera alla stessa polizia, anche questa volta ha cercato di essere cauta, cioè ha ammesso fin da subito che si trattava di un attacco, però ha aspettato moltissimo e non ha mai, insomma, prima di parlare di attacco terroristico, e soprattutto non ha mai confermato le indiscrezioni su questo pakistano che era stato fermato. Solo oggi hanno cominciato a dire, appunto, è stato fermato un pakistano, abbiamo fatto un blitz in un centro di accoglienza nel vecchio aeroporto di Tempelhof, eccetera eccetera, e a quel punto però, quando l'hanno messo, i dubbi erano già diventati enormi che non fosse lui. E quindi, come dire, nel primo pomeriggio abbiamo questa situazione paradossale di un attentato sicuramente di matrice islamica, e con la polizia che ha interrogato per tutta la notte la persona sbagliata, cioè un pakistano erroneamente individuato come l'autore della strage, poi non era lui. Tonia, scusami, ma l'atmosfera adesso a Berlino com'è? Sono stati annullati degli eventi? Il mercatino di Natale prosegue? Cosa succede? Ma no, allora i mercatini di Natale, a parte poche eccezioni, sono una sessantina, qui sono stati quasi tutti chiusi. Io sono andata in uno di questi, c'erano pochi passanti, ma c'era anche molta rabbia, molto senso di rivalsa, cioè molto della serie non insomma, non è giusto, alto. Vogliamo continuare a vivere con la nostra libertà. Esatto, esatto. Ed è stata anche la cifra politica di tutta la giornata, diciamo più ufficiale, governativa, lo ha detto, non dobbiamo avere paura, non dobbiamo cedere di fronte al terrore, alla paura, lo ha detto Angela Merkel, lo ha detto il Presidente della Repubblica, Joachim Gauck, lo ha detto anche il Ministro dell'Interno, Thomas de Maizière, tradizionalmente su posizioni, diciamo, più a destra della Cancelliera, anche spesso critico, però oggi si è compattato dietro anche Merkel e non ha voluto fare polemiche e ha detto: pensiamo oggi alle vittime e soprattutto non arretriamo di un millimetro dinanzi al tentativo dei terroristi di farci paura. Questo mi sembra un messaggio fondamentale, il messaggio anche di in qualche modo mantenere la testa fredda, no? Era anche, mi ricordo, fu il messaggio, insomma, mi ricordo, ho letto nei libri, che fu il messaggio anche di Helmut Schmidt quando di fronte al terrorismo rosso, lui disse la stessa cosa, usò una frase, non la stessa cosa di Merkel, ma insomma, usò una frase che significava più o meno: quindi, bisogna mantenersi lucidi, freddi, ecco. Quindi la politica è compatta, no? Anche in questo, Tonia, oltre alla cittadinanza. Che... No, in realtà solo, diciamo, la grande coalizione è compatta, CDU-CSU, con la solita eccezione dei bavaresi della CSU, che hanno cominciato quando ancora non era neanche chiaro chi fosse, e non è neanche oggi chiaro chi sia l'attentatore, a cogliere l'occasione per attaccare Merkel, insomma, sull'immigrazione. Magari non è neanche un profugo, potrebbe essere anche un attentato di matrice islamica, come si presume ormai, ma insomma potrebbe essere un non profugo. Eppure Seehofer, governatore della Baviera, gli ha chiesto una svolta sulla politica dei profughi, che peraltro Merkel ha già annunciato al congresso di qualche settimana fa, quindi direi piuttosto inopportuno. E ultima notazione, sì, c'è stata la veramente ributtante reazione dei populisti dell'AfD, che neanche un'ora dopo, che non si sapeva ancora nulla, la conta dei morti era in corso e l'AfD si è buttata sui cadaveri come un avvoltoio, e il compagno Frocca Petri ha detto che i morti sono a carico di Angela Merkel, che Angela Merkel è una... bisogna smettere di essere ipocriti, eccetera. Quindi la destra sta cavalcando in pieno questa cosa, come era prevedibile, insomma, per Merkel, certo, è un rischio visto che il prossimo anno ci sono le elezioni. Per il momento ci fermiamo qui. Grazie Tonia Mastrobuoni da Berlino per Repubblica. Grazie Tonia, buon grazie lavoro a voi. Ciao. Grazie a voi. Grazie. un sistema ulteriore di sicurezza che già esiste ed è presente a Milano, ma ovviamente verrà rimodulato nelle prossime ore, parlo nelle prossime ore, quindi non nei prossimi giorni, nelle prossime ore, proprio per poter riattualizzare tutto l'intero sistema della sicurezza che viene attuato da tutte le forze di polizia e dalla polizia locale e viene integrato anche da quegli 800 uomini dell'esercito che sono stati di recente implementati, da 650 sono stati portati a 800. E questo è il prefetto di Milano, Alessandro Marangoni, che ha detto che viene rimodulato, insomma, il sistema di sicurezza a Milano. Questa è una richiesta che ha fatto il Viminale ai prefetti di tutta Italia. Vincenzo Miglietta da Roma, il nostro Vincenzo, ciao. Sì, buonasera, ciao. Buonasera ai nostri ascoltatori. È così una richiesta partita dal Viminale con una circolare ai prefetti, ai questori di tutto il paese, e soprattutto questa decisione è stata presa al termine del comitato di analisi strategica di antiterrorismo presieduto in giornata dal ministro dell'interno Minniti, e poi anche il presidente del Consiglio Gentiloni ha incontrato a Palazzo Chigi i tre direttori delle agenzie dell'intelligence. Di fatto si invitano tutti i questori e prefetti ad una maggiore attenzione, ad innalzare le misure di sicurezza non solo nei luoghi tradizionalmente sensibili che possono essere i luoghi pubblici, ma soprattutto i luoghi dove a ridosso del Natale saranno maggiori le presenze delle persone, ed ecco perché soprattutto saranno aumentate le cosiddette misure di difesa passiva proprio per evitare quanto successo a Berlino, ovvero nell'ipotesi, Roberta, sempre che speriamo non accada mai, ma comunque che si ripresenti un tir, un mezzo di grandi dimensioni e che possa quindi andare incontro alla folla. Quindi queste le prime misure, e poi comunque aeroporti, porti i tradizionali luoghi strategici sono evidentemente sotto una maggiore osservazione, a partire poi dalle grandissime città, da Milano, Roma con il Vaticano. In questi posti evidentemente, come a seguito degli altri attentati, la sicurezza è stata sicuramente aumentata. Perché Alfano anche ha detto, lo dicevamo prima, in Italia non esiste il rischio zero, l'allerta è sempre altissima. Vincenzo, per chiudere sulla giovane italiana data per dispersa, non mi pare che ci siano aggiornamenti, no, al momento? Non ci sono aggiornamenti, se non delle pochissime notizie che trapelano dal paese di origine della ragazza, Sulmona in Abruzzo, dove alcuni familiari comunque confermano la presenza a Berlino della mamma e del fratello, in particolare della ragazza, ma la speranza è veramente rimasta appesa ad un lumicino, e gli stessi parenti evidentemente danno quasi una conferma in diretta che si possa trattare proprio della ragazza, sì. Purtroppo. Grazie Vincenzo Miglietta da Roma. Grazie. Ciao Vincenzo, buona serata. Direi che dobbiamo subito prenderci una pausa, ci risentiamo tra pochissimo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Riprendiamo allora il filo dei temi. Abbiamo parlato moltissimo della strage di Berlino, ci siamo collegati con la capitale tedesca, abbiamo cercato di fare anche un'analisi di questa recrudescenza, con questo attentato terroristico, della paura che torna, di che cosa possiamo rischiare. Abbiamo detto che anche in Italia purtroppo l'allerta è altissima e che non c'è una grande capacità naturalmente di previsione di questi attentati, purtroppo, e che c'è questa giovane donna di 31 anni che è ancora cercata, che è data per dispersa, anche se i genitori sembrano purtroppo piuttosto rassegnati. Adesso tra poco vi ricordo sempre le notizie più importanti, se non avete acceso puntualmente alle 21, e poi passiamo a un altro tema. La strage di Berlino, le vittime sono 12, una cinquantina i feriti, dispersa una ragazza di Sulmona, ma il padre dice non mi illudo, l'ISIS rivendica l'attacco, intanto è stato rilasciato il pakistano arrestato, l'attentatore quindi è ancora in fuga e la cancelliera Merkel non cede, dice grave se è stato un profugo ma sull'accoglienza non cambieremo. Sale l'allerta terrorismo, il ministro Alfano sottolinea non esiste il rischio zero, l'allerta terrorismo resta sempre altissima, il Viminale non esclude atti emulativi ed emana una direttiva ai prefetti e questori, dice rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di maggior afflusso. Roma, la giunta Raggi di nuovo nel caos, bocciato il bilancio del comune, conti sbagliati, dicono i revisori. Milano, Beppe Sala torna a fare il sindaco, ne parleremo tra breve, poi la scalata di Vivendi a Mediaset, boom di scambi sul titolo del Biscione in borsa dopo l'annuncio dei francesi di voler salire dal 26% al 30% di proprietà per la TAV, sì finale al trattato con la Francia dopo un iter di 25 anni, la Torino-Lione si farà. All'inizio avete sentito della bocciatura del bilancio previsionale 2017 del Comune di Roma, ma intanto che succede invece a Milano? Il sindaco Beppe Sala, che si era autosospeso, vi ricordate, nei giorni scorsi perché è indagato nella vicenda, nell'inchiesta sull'Expo, è tornato in sella e ha annunciato la fine della sua autosospensione sulla pagina Facebook. Ne parliamo con Sara Monaci del Sole 24 Ore. Cara Sara, buonasera. Buonasera. Quindi insomma ha deciso di ritornare a fare il sindaco, come gli hanno chiesto in molti, persino le opposizioni, no? Sì, come era previsto peraltro, anche perché poi diciamolo, questo strumento dell'autosospensione è un po' un'invenzione pionieristica di queste ore, non esiste l'autosospensione, è un'assenza temporanea, quella concessa tecnicamente se ci fossero dei problemi personali a qualsiasi lavoratore. È un istituto un po' inventato da Sala, ma che ha una ragione simbolica, politica importante, insomma quella di dichiarare la volontà di fare chiarezza, una volontà di trasparenza, ma anche di rivendicare anche con toni polemici, diciamo, nei confronti della magistratura, di non dover apprendere le notizie dalla stampa, perché di fatto se l'abbiamo detto noi la sera che risultava fosse indagato, e poi anche per voler appunto marcare una distanza dall'inchiesta, approfondire la questione con gli inquirenti e poter dichiarare oggi, come poi ha fatto, la sua innocenza e comunque il fatto che tutta questa inchiesta verrà rapidamente superata, perché si tratta di indagini, come saprete, che erano state avviate dalla Procura della Repubblica e su cui c'era una richiesta di archiviazione e che poi la Procura Generale ha deciso di riaprire. Quindi una strana situazione, insomma. Sì, una situazione strana, perché la prima inchiesta aveva escluso, per quanto riguarda Sala, il dolo, era una retrodatazione di due verbali per la sostituzione di due commissari in una commissione appaltatrice, quindi per far prima era stata effettivamente retrodatata una di qualche giorno, una data, però non c'era appunto un dolo, questo dicevano i procuratori della Procura della Repubblica. Poi complice una serie la tensione che c'è stata negli ultimi mesi nel Tribunale di Milano, questa inchiesta è stata sfilata alla Procura della Repubblica. La Procura Generale, che ha un ruolo, diciamo, è il secondo grado, che controlla quanto fatto dal primo grado, ha sostanzialmente riaperto il caso, anche qui un'altra cosa insolita, perché di solito si aprono le inchieste di nuovo quando il primo grado non ha fatto le indagini, qui erano state fatte ma erano state archiviate, quindi siamo all'interno di un processo insolito dal punto di vista dell'esperienza materiale e anche dell'istituto pratico, perché non c'è l'autosospensione. Poi anche l'annuncio di Sala è un po' insolito, l'ha dato su Facebook. Sì, ormai con i social network non si evita di fare conferenze stampa. Nessuna comunicazione ufficiale, però solo sul suo profilo Facebook. Sì, ormai vanno per la maggiore. Comunque è ritornato in sella, non so se vogliamo sentire proprio brevemente Stefano Parisi, che era il suo rivale poi nella corsa a sindaco, no, di Milano, che lui stesso ha detto non è un'accusa grave, e però c'è tanta opacità intorno a quello che è successo a Expo. Sentiamolo. Mi sembra che siano accuse assolutamente secondarie. Certo che c'è tanta opacità intorno a quello che è successo all'Expo, da un lato, e dall'altro c'è una forte dialettica, per usare un eufemismo, all'interno della Procura di Milano su questo tema, che prolunga da molto tempo. Vi ricordate quando Renzi alla fine dell'Expo ha ringraziato la Procura per il suo rispetto istituzionale? Insomma, è un po' strano che un presidente del Consiglio ringrazi la procura perché non ha mandato a visita di garanzia. Comunque Sala è ritornato, si dice innocente, adesso vediamo se la vicenda Sala è chiusa qui oppure se dovesse avere altri. Però poi diciamolo, Parisi non ha tutti i torti su alcune cose, però bisogna ricordargli che gli avvisi di garanzia invece ci sono stati, non è esattamente così, ci sono delle inchieste che sono addirittura già arrivate a conclusione con il patteggiamento e riguarda proprio anche persone che erano indagate tecnicamente come Sala, quindi in realtà ce ne sono stati altri due filoni che sono già andati a conclusione. Grazie Sara Monaci del Sole 24 Ore. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro Sara. Ciao. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Bello questo messaggio di Silvia che dice: Roberta cara, come potremo festeggiare il Natale sapendo che per colpa della cattiveria di certi uomini molte famiglie piangeranno la morte dei loro cari? Questo ennesimo attentato terroristico che ha colpito Berlino mi ha gettato nel più nero sconforto. Sono così stanca, dice Silvia. Bello anche sentire l'empatia per gli altri, no? di tante persone. Tra poco lo spazio europeo. Vi ricordo molto velocemente però le notizie più importanti, insomma, avete acceso puntualmente, ricordatevi alle 21. A Berlino un'italiana dispersa di 31 anni, genitori. I genitori dicono di non illudersi e poi il killer sarebbe ancora in fuga visto che il pakistano arrestato è stato rilasciato. Intanto l'ISIS rivendica la strage a Berlino. Sale l'allerta terrorismo, il ministro Alfano dice non esiste il rischio zero, il Viminale chiede di rafforzare la sicurezza nei luoghi pubblici. Poi è stato bocciato il bilancio di Roma, intanto la Raggi si difende, dice non ero ricattata da Marra che sapete è stato arrestato nei giorni scorsi, e a Milano, ne abbiamo appena parlato, Sala torna sindaco. E direi sì che i vostri messaggi, Max sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Max dice ormai qualsiasi idiota disadattato ha trovato il brand per esprimere la sua idiozia o la sua comprensibile disperazione, perché il disagio esiste ed è diffuso, il brand è la guerra in Medio Oriente nella quale l'Occidente ha torto ragione è percepito responsabile, urge una roadmap per sanare definitivamente quell'area da qui a 20 anni, diversamente dovremo rassegnarci a questo brutto presente, scrive Massimo da Roma. Spazio europeo. Europa 24 notte. Sull'emergenza terremoto l'Italia fa scuola in Europa grazie al progetto Bedrin e nascono i volontari europei, un corpo formato da giovani volontari under 30 capaci di intervenire in situazioni di crisi come terremoti o altre calamità naturali. L'obiettivo è creare un corpo di 100.000 giovani volontari entro il 2020. Le adesioni da parte dei giovani si possono registrare sul sito della Commissione europea. Il progetto europeo Bedrin arriva anche nelle zone terremotate in Italia. Si propone di rafforzare la capacità di gestione dei volontari europei UAID Volunteers delle potenziali organizzazioni ospitanti di Albania, Kosovo e Macedonia in funzione della futura certificazione nel programma europeo. Ma oltre a queste zone si è aggiunto un obiettivo, l'aiuto ai terremotati. Come spiega Mauro Casinghini del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, che si trova proprio nelle zone terremotate e collabora con lo staff di Bedrin. Sostanzialmente il significato dell'acronimo è la traduzione di assistenza allo sviluppo del volontariato nell'area balcanica ed è un progetto che si propone nell'ambito del volontariato europeo di sviluppare la capacità di risposta alle emergenze del sistema di protezione civile dell'area balcanica, appunto, con particolare riferimento ovviamente al volontariato. Quindi le buone pratiche italiane circa il piego del volontariato in protezione civile che viene esportato anche nell'area balcanica. Questo esempio è arrivato fino alle zone terremotate. Voi in che ruolo avete in questo progetto? Il progetto è partecipato da 11 organismi e organizzazioni. Fra questi 5 sono italiani, fra cui c'è l'ANPAS, la Croce Rossa e poi c'è il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. E nell'ambito europeo ci sono anche Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta ungherese. Nel mese di ottobre i partecipanti a questo progetto sono venuti sulle aree terremotate, li abbiamo portati ad Amatrice, il Dipartimento della Protezione Civile ha illustrato loro il sistema nazionale di protezione civile, si punta a armonizzare le strutture operative che operano in protezione civile ed è proprio partendo dall'esperienza italiana. Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma European Union Aid Volunteers. è un bando del 2015, misura la capacità di costruire organizzazioni volontarie. Voi quanti ne coinvolgete anche grazie a questo progetto? Il CISOM coinvolge 4 volontari, sono continuativamente impegnati nel progetto. E all'ultimo Consiglio europeo il Presidente della Commissione europea Juncker ha espresso la sua soddisfazione nel dare l'annuncio della creazione di un corpo di giovani volontari europei lo scorso 7 dicembre. È il primo successo nella creazione del Corpo europeo di solidarietà, ha detto. Più di 2000 giovani si sono dati volontari per far partire questa iniziativa. La Commissione europea ha infatti lanciato il Solidarity Corps, che sono formati da giovani volontari under 30 capaci di intervenire in situazioni di crisi come terremoti o altre calamità naturali. L'obiettivo è creare un corpo di 100.000 giovani volontari entro il 2020. Tutte le domande di adesione potranno essere effettuate dai giovani sul sito dell'Unione Europea. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. E si è infilato qui in studio Dario Ricci, caro. Eccomi, Dario, sì, sì, ciao, di perché soppiatto. Ma di soppiatto, piano piano, ma come ero porta? Sorpreso perché ti stai godendo Atalanta-Empoli mentre conduci, sì, vuol sì, dire sì, che ti guardando. Sei finalmente convertita al dio pallone, certo. Brava, brava Roberto. Vedo che però non decolla la partita 0-0, mi pare che non decolli neanche il Milan, poi ne oggi parliamo. Oggi è giornata di non decolli, di non sì, decolli. 0-0. Ma come giustamente sottolineavi, il non decollo più clamoroso è proprio quello del Milan, come sai, venerdì ore 17:30 italiane è in programma a Doha in Qatar la finale della Supercoppa, anzi la gara unica della Super, che assegna la Supercoppa tra Juventus e Milan. Gli juventini sono partiti regolarmente come previsto e sono già al calduccio a rompere il fiato, visto che insomma le difficoltà logistiche, il cambiamento di temperatura meritano un'adeguata acclimatazione. Il Milan è ancora a Milanello e doveva partire oggi alle 15 da Malpensa. E come mai? Perché? Perché si è rotto il charter che avrebbe dovuto portare i rossoneri a Doha. Qualche volta capita anche a loro, diciamo. Sì, capita a noi, è sorprendente la cosa, perché gli organizzatori catarioti hanno scelto due diverse compagnie per Juventus e Milan, comunque compagnie specializzate nel servizio VIP, che già hanno fatto questo servizio per molte altre squadre, ma l'aereo del Milan è rimasto fermo a Stansted all'aeroporto londinese, e quindi il Milan ha dovuto rimpacchettare tutto e muovere tutta una squadra, la logistica, i magazzinieri, il materiale non è certo semplice. Ha preferito a questo punto, piuttosto che partire in nottata, riposare ancora in Italia. Domani si allenerà a Milanello. È prevista la partenza alle 15, ma Galliani, di domani, giovedì? Domani, ma no, domani mercoledì, scusami. Mercoledì, ma Galliani è infuriato perché ha detto in caso di ulteriori ritardi ha minacciato addirittura di non far partire il Milan per questa. E quindi a quel punto Supercoppa. La Juventus è lì, se le anda sola e tornerà indietro. Sì, beh, si porta pure la Coppa a casa, perché se non ti presenti è tutto sommato. Certo, a vinci quel punto a tavolino. La Coppa stava qua, tanto vale. Beh, ci auguriamo che per quanti disguidi siano ritirati. No, assolutamente, però insomma ricordiamo che qua questa partita vale 2,8 milioni di euro, perché la Lega Calcio prende il 10% di questa cifra, il resto se lo spartiscono le due società, è l'organizzazione catariota legata direttamente a quella dei mondiali di Qatar 2022 che mette questa cifra, e per questo andiamo a giocare. Quindi lì immagino insomma che faranno il massimo per farli partire. Beh, finora diciamo hanno fatto il minimo, sì. 30 secondi, non so se la Formula 1 in 30 secondi. Formula 1 veloce come un. Velocissimo è stato anche il ritiro di Massa. Felipe Massa sarà ritirato a fine stagione, torna già il prossimo anno. Perché? Perché la Williams, no, la Williams, piuttosto che cercare un nuovo pilota, ha rifirmato la vecchia conoscenza brasiliana. Perché? Perché il finlandese Bottas sarà l'erede di Rosberg alla Mercedes. Rosberg anche lui si è ritirato appena conquistato il titolo di campione del tutto mondo. Tutto un ritiro, però qualcuno dice: Massa, ho scherzato, torno qua. Però intanto, quello che ci ha guadagnato è pure Bottas, che guiderà una delle frecce d'argento insieme a Lewis Hamilton. E gli darà una bella Bottas. Grazie Dario Ricci, noi ci riaggiorniamo alle 22.